Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per parlare del documentario Letizia Battaglia, Shooting the Mafia, di Kim Longinotto, al cinema da giovedì 16 luglio 2020. Dario, ben trovato. Ben trovato a te Federico e ben trovati a tutti, è sempre un piacere essere ospite di Radio Onda Rossa. È un po' che non ci si sentiva, è un piacere anche per me. Descriviamo questo lavoro a chi ci ascolta. Sì, è un po' che non ci sentiva, ma chi ci ascolterà sa benissimo perché. Noi ci siamo trovati, parlo a nome di I Wonder Pictures, in una situazione come tanti molto complessa, dove alcuni progetti editoriali erano pronti, primo tra tutti il film Gli anni amari, che è al cinema dalla seconda settimana scorsa e che abbiamo fatto uscire a inizio di luglio, e in secondo luogo appunto Shooting the Mafia di Kim Longinotto su Letizia Battaglia, che inizialmente doveva essere nelle sale cinematografiche italiane attorno alla data del 25 di aprile. Ovviamente i tempi della distribuzione cinematografica sono abbastanza lunghi, per cui avevamo già messo insieme una serie di attività in campo che non descrivo neanche, e soprattutto Letizia Battaglia doveva essere con noi in qualcuno di questi momenti tra Firenze e Bologna, soprattutto doverci rinunciare per chi come me, ecco, vive un po' questo lavoro come anche una missione, è stato veramente difficile l'occasione di poterla portare per l'Italia e anche poi di conoscerla, Letizia. Ma ecco, cosa è Shooting the Mafia? Il titolo già credo dia una bella fotografia di quello che è il film. Gli anni in cui Palermo fu sconvolta dagli omicidi di mafia erano anni che difficilmente sulla contemporaneità, sull'immediatezza arrivavano alle persone, ai media. Erano anni differenti, erano anni in cui Letizia Battaglia si trovava come giornalista, video reporter allora a Palermo, e si ritrova quindi a fotografare tutte queste stragi in continuazione, quindi in prima persona ha vissuto quegli anni, e il motivo appunto anche per cui decidiamo di portarlo nelle sale in questa data che è il 16 di luglio, proprio perché è la ricorrenza della strage di Via D'Amelio che è avvenuta il 19 di luglio 1992. Ecco, lei era presente, interveniva, insomma era informato dalla polizia, per cui interveniva in tutti questi momenti. Letizia Battaglia quindi viene così soprannominata poi una fotografa di mafia, ma lei non è che sia esclusivamente una fotografa di mafia, non è un'etichetta che le piace sicuramente avere, diciamo che sono le fotografie che è riuscita a rendere che l'hanno portata ad avere insomma questa etichetta. Sono fotografie che permettono alla persona che le vede di entrare subito in un livello di empatia forte con la situazione che è stata fotografata. Letizia Battaglia ha un occhio totalmente personale, si concentra molto sulle figure femminili, soprattutto sui bambini, per cui ecco, quello che risulta è appunto una testimonianza del momento molto, molto toccante. Il film in generale intreccia interviste, testimonianze d'archivio, dove si racconta la passione e il coraggio di una donna, oggi simbolo più che mai di libertà, un personaggio strepitoso che ha vissuto la sua vita senza schemi, appunto dalla fotografia di strada, la documentazione di morte di mafia, che è poi diventato impegno politico. Questo film è un affresco, è una fotografa tutto tondo, lavora quasi esclusivamente col bianco e nero perché le piace lasciare una parte di svelamento di ciò che inquadra lo spettatore, dove deve ricostruire con la verticità delle foto e sostituire col proprio occhio i colori che mancano. Quindi è questa caratteristica è tipica di Letizia Battaglia. Lei si è allontanata poi dal mondo della fotografia per un periodo nella sua vita che è coinciso con l'assassinio del giudice Falcone dal 23 maggio del 1992. Da quel punto in avanti si è intrapresa in altre avventure. Ha diretto una rivista bimestrale realizzata solo da alcune donne, ecco, si è trasferita poi anche a Parigi per il clima sociale differente che si rispirava a Palermo, dove insomma lei è di casa. A Palermo ci fa ritorno poi nel 2005, ecco. Letizia Battaglia è un personaggio a tutto tondo, incredibile, ha avuto tre figlie da giovanissima e oggi vive con il compagno a Palermo e nel 2017 proprio a Palermo, all'interno dei cantieri culturali della Zisa, ha inaugurato quello che è il Centro Internazionale di Fotografia che dirige, ecco. È un po' un museo, una scuola di fotografia, una galleria, ecco, io invito chiunque si trovi a Palermo a andarlo a trovare, era sempre disponibile, sempre pronta a raccontarsi se la si incontra. Sono anni particolari anche per lei, perché come c'è l'uscita di questo film nelle sale, c'è anche stato un altro film molto importante presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di Franco Maresco, La mafia in una piccola volta, dove c'è proprio la sua immagine in locandina, ecco. E sono stati dedicati già altri documentari, altri film, da Sky Art, dalla televisione svizzera, nei vari anni, ma questo è proprio l'anno in cui Letizia finalmente è emersa come personaggio pubblico, come artista e come la più grande sicuramente fotografa italiana vivente. C'è un passaggio bello, importante del film in cui lei dice di non avere paura neanche della morte. Nella lunga esperienza, appunto, nella cronaca nera, si è formata un carattere che però poi nel suo ingresso in politica, diventata assessore a Palermo e poi con la conoscenza di Falcone e Borsellino, ha perso quel distacco e ne ha sofferto molto rispetto a quel colpo al cuore dello Stato che ha sferrato la mafia. Emotivamente non se l'è sentita di fotografare né Falcone né Borsellino, e questo è un segno forte del sentimento che la anima. Sì, mi ha ricordato anche parlandoci più volte, così come emerge nel libro, il necessario rispetto per quello che si fotografa. Spesso la vita di un corpo reporter è talmente vorticosa, impresa di eventi, che si cerca il sensazionalismo, ecco. L'obiettivo va spesso a inquadrare in primo piano scene molto cruente, però riesce a restituire comunque una cornice, un contesto molto di familiarità, di luoghi comuni, di persone della vita di tutti i giorni, per cui si instaura subito un legame e un'identificazione da un punto di vista sentimentale, ecco. Per lei è una passione, lei dice di essere stata salvata dalla fotografia, dice proprio: ero una donna giovane, intelligente e disperata, nel senso che la fotografia mi ha permesso di esprimere i miei pensieri, la mia ribellione, il mio impegno sociale e politico. È una donna molto impegnata politicamente, una donna che non accetta alcun compromesso, una donna che è sempre pronta a difendere i suoi pensieri, quello che pensa, e la fotografia le ha permesso di fare questo, partendo appunto da essere una fotogiornalista per il giornale che era di sinistra allora, appunto, di Palermo, fino alla chiusura negli anni 90. Che tipo di distribuzione sarà? Accennavo prima di possibilità, ovviamente, che abbiamo avuto di costruire un progetto al team che si legasse a una giornata particolare, quella della giornata internazionale contro le mafie dello scorso aprile, e siamo andati a posizionarci in questo periodo proprio perché sentiamo urgente la necessità di portare questo film agli italiani, un film che sarà distribuito, posso andare ad intuire, una ventina di sale in Italia, ma è un numero che è come una scommessa quella che faccio ora, perché come ben si sa il meccanismo della distribuzione, pure in tempi complessi come oggi, viene di settimana in settimana, per cui solo all'inizio della prossima settimana sapremo quali città realmente il film sarà mostrato, e al momento ci sono non più di un centinaio di schermi in Italia che sarebbero in grado di mostrare questo film, ma sappiamo che ci sono anche tanti altri prodotti, ma io sono sicuro che è un film che pian piano arriverà in tutta Italia. Sono convinto che da quest'estate lo si potrà vedere nelle sale che sono ancora aperte, dove invito ad andarci. Sono luoghi sicuri, sono luoghi controllati, sono luoghi in cui magari l'aria condizionata d'estate può fare anche comodo e sono luoghi che conservano naturalmente la magia del cinema. In agosto, con ogni probabilità, lo stesso sarà anche mostrato nelle arene cinematografiche e occasioni non mancheranno anche nei mesi successivi. Ecco, io un invito, quello che faccio, questo di andare a vedere Il Piccolo Tizio Battaglia, proprio perché è un film che è un manifesto di una passione, una dichiarazione di amore, è un film interamente dedicato ad una figura femminile, girato da una regista, scelto da una produttrice che non è di origine italiana, ma è una produzione inglese, che appunto restituisce un punto di vista, una narrazione dall'estero con un occhio un po' differente da quello che ci si può aspettare, ma sicuramente molto lucido, molto limpido, e dove emerge in modo inconfutabile la passione e l'impegno che una straordinaria donna come Letizia mette nella vita di tutti i giorni nel suo lavoro. Letizia Battaglia, Shooting the Mafia di Kim Longinotto, al cinema da giovedì 16 luglio 2020 con I Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli. Dario, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, viva il lupo e a molto presto. Ciao a tutti. Con Michela Occhipinti, regista del film Il corpo della sposa, sul Mio Cinema, a partire da giovedì 9 luglio alle 20.30, con presentazione al pubblico da parte della regista. Michela, ben ritrovata. Ciao Federico, dopo 9 anni. Dopo 9 anni. Ne sono successe di cose. Tante. Per chi ci ascolta, come lo descriveresti questo lavoro? Stasera lo presenterò insieme a Felice Lauderio, sono onoratissima e sono felicissima di farlo vedere su una piattaforma in Italia, già stato su varie piattaforme in Francia, ma in Francia ho avuto una vita molto più semplice perché per tutta una serie di motivi che semmai ne parliamo dopo, ma è un film in realtà, questa rassegna si chiama I documentaristi italiani, questo è un film, io vengo sì dal documentario, anche se Lettere dal deserto, che è stato il mio primo lungometraggio, era un documentario ma era molto un ibrido, nel senso sì. Tutto, i personaggi erano reali, i luoghi dove vivono erano reali, i rapporti che avevano tra di loro erano reali, però è stato un po' guidato, nel senso che se no sarei dovuta rimanere troppo tempo e produttivamente proprio non avremmo potuto permettercelo dopo finanziariamente. Questo qui è proprio un film invece, è iniziata l'idea come un documentario, ovvero io volevo andare lì e cercare una ragazza e seguirla nel suo percorso di gavage, appunto, quindi di alimentazione forzata, ma poi per vari motivi ho deciso di fare un film, prima di tutto perché avrebbe restituito molto di più la realtà, e sembra un paradosso perché come è un film scritto, sì, perché ci sono troppe sfaccettature rispetto alla storia del gavage. Se avessi seguito la storia di una ragazza che viene sottoposta a gavage e ha intorno a sé amiche che non lo fanno, che lo fanno in maniera diversa e tante altre situazioni, si sarebbe vista soltanto una parte della realtà, si sarebbe potuto credere che solo quella è la via che lì per una ragazza in Mauritania, invece non è così. E allora, avendo ascoltato molte storie dal vero, le ho messe, diciamo, un po' tutte insieme in una sceneggiatura che ho scritto insieme a Simona Poppini. A quanto ho capito è una pratica nordafricana, in Mauritania è tuttora praticata, è l'unica area al mondo che utilizza questi metodi? No, perché alla mentre facevo le ricerche ho scoperto che anche in alcune parti del Niger succede, poi ho scoperto man mano, andando in giro per festival per il mondo, ho conosciuto, che ne so, persone in festival in Marocco, in Turchia, in India e mi hanno raccontato che succedeva in Marocco e succede ancora in alcune aree rurali del Marocco, succedeva in Tunisia, succedeva addirittura in India. A parte è molto difficile fare un censimento, comunque un esame accurato di questo fenomeno, perché appunto sono spesso paesi in cui non si fanno questo genere di studi, o comunque se si fanno è difficile entrare nelle aree rurali e capire esattamente qual è la proporzione, no, di ragazzi o di donne che lo fanno per loro scelta indotta, ma o perché sono sottoposte dalla famiglia a farlo, ma credo che in Mauritania oramai, diciamo, è il paese dove in pratica di più, però sta esaurendo questa cosa, nel senso ancora è forte nelle zone del deserto, nelle zone rurali, credo che circa un 30-40% delle bambine, soprattutto ragazze giovani, lo fanno. Nelle città molto molto molto meno, credo che si aggiri intorno a 15-20%, 25% non saprei esattamente la cifra, ma soprattutto sono a volte delle ragazze lo fanno volontariamente andando a comprare al mercato nero le pillole a base di cortisone che sono destinate a migrazione del bestiame, come noi compriamo le pillole a base di anfetamine per dimagrire, loro fanno quest'altra cosa per mettere peso. E l'alimentazione forzata è combinata ai matrimoni combinati? Sì, perché poi ho scoperto anche qua che i matrimoni combinati ci sembrano qualcosa, appunto una cosa assurda che può succedere solo in paesi noi consideriamo in via di sviluppo, io non lo considero, nel senso che credo che ogni paese abbia segua i suoi gradi di evoluzione per tutta una serie di fattori, non solo culturali ma anche climatici e religiosi, culturali, spirituali, per tutta una serie di motivi, ma ho scoperto poi che negli Stati Uniti ci sono migliaia di matrimoni combinati, ma tra uomini di una certa età e ragazzine molto giovani, ma tanti, tanti, tanti, e io ne ero completamente all'oscuro. Comunque sì, in Mauritania succede questo, che una ragazza viene ancora oggi spesso data in sposa a un uomo spesso un po' più grande di lei o comunque più benestante, si cerca di fare, scelto dalla famiglia, e viene sottoposta al gavage, è una pratica che dura circa 2-3 mesi di solito, per mettere su tanto peso, tanto, non 10 kg, cioè, non 2-3 kg, 4 kg, ma 20 kg, 25 kg, perché quello è il canone di bellezza, ma nasce tradizionalmente perché così il capo famiglia, l'uomo di famiglia, potesse mostrare alla società che lui era abbastanza benestante da poter nutrire bene tutte le donne della sua famiglia, che a quel punto se ne potevano stare a casa sedute senza lavorare e mangiare e quindi prendere peso. E poi è diventato di conseguenza anche un canone estetico, ma nel frattempo un sacco di ragazzine delle nuove generazioni e di una classe sociale magari media o medio alta non lo fanno più perché non gli interessa, non ne fanno neanche nulla. Su Mio Cinema e per le sale? Il film è uscito a Berlino l'anno scorso a febbraio, quindi è passato un anno e qualche mese, poi è stato al Tribeca, poi appunto al Bifesta, Barian prima italiana, e poi subito dopo il Bifesta, quindi era prima, mi pare, sì, prima di maggio, ho iniziato a fare con la Kirev, che l'ha distribuito, giri io per le sale per 2 mesi, maggio, giugno, sono stata in giro per gran parte d'Italia, un giorno di qua, un giorno di là, da questi meravigliosi esercenti che hanno ancora il coraggio e la voglia di distribuire film così più particolari, diciamo, piccoli, che raccontano storie più lontane, più difficili da vedere di solito. A questo proposito, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Fammi che esca su Mio Cinema, che è tra l'altro una piattaforma trovo meravigliosa perché appunto è collegata alle sale, quindi ogni persona che si collega e vuole visionare un film decide attraverso quale sala lo vede, quindi in teoria è un modo è un modo per promuovere proprio le sale, quindi mi sembra un'operazione veramente super intelligente e utile in vari modi, diciamo che il suo piccolo percorso in Italia lo ha avuto, però questa nuova ripartenza con Mio Cinema potrebbe anche essere una piccola nuova vita, diciamo, vediamo, speriamo. Il corpo della sposa su Mio Cinema a partire da giovedì 9 luglio 2020, alle 20:30 ci sarà l'evento con la presentazione della regista. Un saluto e un ringraziamento a Michela Occhipinti. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto, Michela. Grazie mille Federico, grazie, speriamo bene che non sia mai che magari qualche sala lo rivoglia, che di solito la mia vita e il mio cinema non ha, ma sia sempre piuttosto tortuosa e lunga e lenta, quindi non si sa mai, speriamo bene. Con Amedeo Bacigalupo di Cloud9 per presentare il film Young Ones, L'ultima generazione di Jake Paltrow, on demand da lunedì 13 luglio 2020. Ben trovato. Ben trovato a te, buongiorno a tutti. Come lo raccontiamo brevemente a chi ci sta ascoltando? Il film è un film di fantascienza, si svolge in un'America in un prossimo futuro, speriamo di no, però insomma diciamo questo è l'assunto del film, in cui una siccità devastante ha arso tutta la terra e quindi l'acqua è diventato l'unico bene prezioso del pianeta. In questa terra desolata, fotografata devo dire magistralmente da Gilles Nutgens, io ho letto una critica del New York Times che dicevano che le dune riarse sembravano ricche come degli arcobaleni, quindi questa terra desolata i pochi sopravvissuti lottano per rimanere in vita e a Ernest Holm, che è interpretato da Michael Shannon, che abbiamo visto recentemente in Cena con delitto, vive in questa terra di frontiera nella sua fattoria con due figli poco più che adolescenti che sono Jerome e Mary, interpretati da Jodie Smith e Elle Fanning, e difende la sua terra, di fatto facendo il contrabbandiere e sperando di riuscire a convogliare una condotta di acqua che stanno costruendo in questo momento per far rinascere il suolo intorno alla sua fattoria. In tutto questo il fidanzato della figlia Mary, che è intitolata da Nicholas Holt, invece ha dei progetti più ambiziosi, vuole di fatto impossessarsi della terra del padre della sua fidanzata e da lì si innesca una faida familiare che farà precipitare la situazione, diciamo una storia di vendette del film, quindi diventa un'avventura molto tesa di rapporti familiari e non. Di Jake Paltrow cosa sappiamo? Lui è figlio e fratello d'arte, perché lui è il figlio di Blythe Danner, che è un'attrice americana e di un noto regista americano di televisione, e nonché fratello di Gwyneth Paltrow. Lui ha esordito con un documentario su Brian De Palma che era abbastanza interessante, poi ha fatto un film completamente diverso perché era una commedia che si chiamava Big Night con la sorella, appunto, Gwyneth Paltrow, Martin Freeman e Penelope Cruz, e questo è il suo terzo film. Quali sono gli elementi che più ti hanno interessato del lavoro? Mi è piaciuta tantissimo l'ambientazione, il fatto che sia chiaramente un film di fantascienza, quindi ci sono sicuramente effetti speciali, è un film di genere, se vogliamo, però ha un'anima umana molto forte. La cosa che mi è più piaciuta del film sono i rapporti e anche il respiro del film, che è un respiro molto, molto umano, cioè è un science fiction sui sentimenti, ecco, diciamo così. Che vita ha avuto all'estero? Il film è uscito in America, in sala, qualche anno fa, perché noi insomma l'abbiamo ripescato perché ci sembrava un piccolo capolavoro che era stato in qualche modo dimenticato, e ha avuto quindi un'uscita theatrical e poi è stato distribuito nel resto del mondo. Che distribuzione sarà? Sarà una distribuzione on demand, in questa prima fase sarà un quello che in gergo si chiama TVOD, uscirà sulle principali piattaforme dal 13 luglio. Un riferimento web per maggiori informazioni? Sul nostro sito che è www.cloud9film.it e sui social cloud9film. Young Ones, l'ultima generazione di Jake Paltrow, on demand dal lunedì 13 luglio 2020. Un saluto ad Amedeo Bacigalupo di Cloud9 che lo distribuisce. Un saluto a voi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, viva il lupo. Un abbraccio.